perfetto, dai, ci sentiamo dopo, ciao ciao, buona carica. Sì, allora devi mettere l'antenna nel, in quello piccolino, poi quello che rimane libero vuole mettere l'antenna nel baracchino e così sai come collegarlo. Cosa c'è scritto in quel rosmetro wattmetro? Cosa c'è scritto? RX-TX. Allora, antenna, metti l'antenna proprio diretta, lì. Poi, aspetta solo stacchi tu. Poi metti lo spezzone che hai fatto tu, dove c'è scritto antenna, che va attaccata al baracchino. Franco, Franco, ci sei Franco, becco, becco, qua San P. Vai a pescare allora. Allora andiamo a pescare, calamari. Ciao Gianni. Ciao Tino. Cosa, Cristian? Ah, ok, va bene. Mica è entrato Gianni, guarda se ti ascolta. Gianni, ascolti a Cristian. Sì, mi sembra che già l'ho sentito, lo sento un po' lontano, ma già lo sento. Capo, affermativo. Eia, eia, che ti sento. Da dove sei tu, Cristian? Ah, allora già ti prendo da lì, ma forse sei un po' chiuso, sei un po' basso, diciamo, da a livello di terreno, meno a livello di... Perché Gianni, quanto l'ascolti lui? Di segnale radio? Di segnale radio l'ascolto basso, però già lo capisco. Invece a te ti sento tranquillo, dai, come ti sei in ombra. Vabbè, io non faccio testo. No, lui, se dove ti arriva una segnale, guarda lo smitter, vai qui. Boh, non lo so, due mi segnalo le smitter, però non lo so se è giusto il mio. No, aspetta, guardalo bene quando parla, vai qui, parla. Oh, se quando parli tu me lo riempi quasi tutto, e lui invece rimane nelle prime. Neanche a metà arriva. Ma che rete stai usando tu, Gianni? È sempre la stessa, l'Alan 68. Il 48 o il 68? No, il 68 c'ho io. 34 canali del 1986, tutto originale. Ma perché quello lì ha LED? No, c'è il display con i numeri 12 e l'SMITER con la freccetta classica. Dai un attimo che è una bassa. Oh, scusate che devo uscire, dai, devo andare a prendere mio figlio. Sentiamo dopo, ciao. Ciao, ciao, a dopo. K Roger. E tu come ti arrivo io qui? Già è buono, dai. Sono tutto originale io, no, non c'ho niente. Eia, però rispetto all'altro giorno ti sento un po' più basso. E sicuramente perché magari c'è anche un po' di tempo umido e foschia e quindi magari il segnale non è, come si dice, non è in bassi veli. E non ti ho capito adesso. Allora io sono a Sorso, a zona alta, più sotto di Franco. Sono su io nel congiungimento Sorso-Sennori, dove c'è, si può dire, la secondaria per salire a Sennori. E va bene, l'importante è che già ci capiamo, là. Capito? E poi del resto già ci sentiamo. E invece l'altra, invece quando, no, però già ti ascolto bene. E magari lo sai cos'è? Che magari io sono in alto, tu magari sei più in basso a livello di terreno, e magari ci sono alberi, capito? E quindi magari il segnale non è buono, però già va bene, è discreto, capito? Magari ne metti qualche metro di palo in più e magari in basso di più. Eia, kappa. E andavè, almeno così. Ok, andavè. Perché a volte non ti cuppio, ti cuppio a tratti, capito? Deve essere c'è qualche interferenza, però già ti sento. Eia. Annabelle, dai, adesso mi sposto un attimo che così mi mangio un morso e magari riprendo dopo, capito? Qui magari ci sentiamo dopo, sempre anche Gavino, e ci facciamo una chiacchieratina, dai. E Annabelle, dai, a dopo allora, così ceno e poi riprendiamo. Grazie, grazie, a dopo allora, anche a te buona cena se non hai cenato ancora, ci sentiamo tra un po', là, se ci siamo tutti ci sentiamo tra un po'. Ma dove siete? Vediamo se c'è qualcuno, vediamo se c'è qualcuno, buonasera. Tino, ci sei? Gianni, ci sei? Franco? Cristian? Via. Guardami il segnale, come? Bene, bene, bene, bene. E allora? Perché? Che strumento è? Sì, ma qual è? Ok. Come l'hai regolato? Vai... Cal... Schiaccia portante e porta a fondo scala con la manopola. E neanche i watt vanno. Strano, eh? Strano, strano, strano. È impossibile. È impossibile, è impossibile. Quegli strumenti vanno. Ascolta, ingresso e verso trasmettitore antenna. Cosa? Rimettilo. La radio è trasmettitore e poi va antenna, va antenna. E prendi e fai cal... Vai sulla manopola, metti cal, schiacci la portante e porti lo strumentino non proprio a fondo scala ma al massimo di dove ci sono i numeri e poi metti SVR e poi ti dovrebbe dare la quota. O altrimenti metti wattmetro, metti direttamente wattmetro e ti dovrebbe dare tutto. Bravissimo. E poi già 0,10 e poi e non ha nessun tastino. Ma non è wattmetro. Aspetta un attimo. Come si chiama? ZG 203V, così è, modello M203, ZG è modello M203, giusto? Allora, ha due cosi neri, perché fa 10-101 kW, ok? No, tu hai una manopola centrale dove c'è sto set, giusto? Ok. Ah, il quadrante di sinistra è quello dove è scritto Watt, quello di destra è SVR, giusto? Ok, sopra dove c'è la manopola c'è un interruttore e sopra quell'interruttore c'è un altro, giusto? Non ci sono due cursori, uno che va destra verso destra e uno verso sinistra. E allora non è il modello 203W. Ok, allora... set. Aspetta. Allora metti il cursore di centro a 5. Ok. Tu metti il cursore di centro a 5. Vai, prova. Aspetti. Che c'è Cristian, ti sta facendo la prova di un rosmetro. Vai, qui, mettilo a 5. Trasmettitore, devi mettere il capo che va dalla radio a trasmettitore. Hai messo il cursore centrale a 5? Ok, quindi a RTX hai messo il capo che va dalla radio al rosmetro, giusto? Ok, e non ti segna. E non ti segna, neanche l'SVR ti va. Oh, buonasera Serbia. Serbia, buonasera Serbia. Secondo me è roba di cavetto, eh? Buonasera Serbia, avanti. Sì, Serbia, anche tu mi arrivi bene, eh? Anche tu mi arrivi bene, Serbia. Qua operatore Golf Alfa Victor India November Oscar Sardegna Italia. Avanti. Sì, sì, my friend. Ok, my friend. My station Sassari, Nord Sardegna. La mia trasmissione è con un CRT 6900 300 whisky power. Ok, perfect, my friend. Radio super, signal 9 pure 6, radio 5, my friend. La mia radio com'è? È buona? Perfetto, my friend. Thank you for contact, grazie per avermi contattato, è sempre un piacere Serbia, dai, tutto alle prossime, un saluto grande, quando mi senti entra per, che mi fa piacere, dai, tutto alle prossime, bye, 73. Bye, my friend, thank you, 73, bye. E beh, Tino. E beh, che piazzato l'hai questo affare? Chi è? Piazzato? Ciao, Gabi. Qui, Franco, allora? Qua. Oh, stavo scendendo il computer. Sì, mi sto aspettando a Cristian che sta provando, che si è messo l'antenna sul tetto e sta provando un rosmetro, ma sembra che non vada. Adesso vediamo un po'. Si è messo l'antenna, è la ula. Sì, ho messo l'antenna e vediamo un po' cosa, perché a sentire lo sento, arriva anche discretamente. Però va a montare un rosmetro e non gli abbassa molto la radio. Sono i 27 eti. Ok, sono anche qua, qui, là e dappertutto. Buonasera. Buonasera, ben sentito. Via Franco Vitti. Franco, ui, ciao Franco, non ti posso dire ben ascoltato perché ancora ho parlato io, tu ancora non hai parlato, quindi a te il mic. Ciao Tino, buonasera. Ciao Fra, ben ascoltato. Tutto bene? Sì, tutto a posto. Meglio così. Oh, vabbè, Cristian, non si è fatto sentire? Sì, si è fatto sentire, però a quanto pare ha un rosmetro che non va. A quanto pare ha il rosmetro che non va perché come va a collegarlo non gli dice niente. Adesso stava provando a mettere un 747 e vediamo un po' cosa dice. Perché un 203 della ZG mi ha detto, e gli ho guardato le caratteristiche, deve metterlo per i 10 watt, deve metterlo a 5, per i 100 watt a 2,5, per il kilowatt a 1. L'ha messo ma non gli segna niente. O è la radio che non scendi oppure è l'orosmetro che non anda. No, vabbè, la radio stava uscendo e magari è collegato male o vabbè, è un po' così, dai, bisogna farglielo vedere. Sì, ma gliel'ho detto cosa c'era da fare, però stava collegando un 747 e va bene, invece di collegare il 747 bisogna vedere prima cosa è successo lì. Perché è impossibile che il rosmetri non vadano, però li toglie un po' di modulazione, cioè li toglie un bel di radio, di segnale. Vai Fra. Ma non è che c'è qualche problema negli ispezioni? È quello che sto pensando, dice che li ha fatti nuovi, però è quello che sto pensando io. Perché il rosmetro, cioè qualsiasi tipo che sia, segnale gli dà. Io anche se non dà segnale, anche se non funziona lo strumento, devi uscire. Cioè di radio di segnale esce lo stesso, meno che non aveva proprio la scheda rotta. Ma molto raro. Secondo me ha qualche spinotto che non sta andando lui, ma qualche connessione che non sta andando. Vai Iti. Boh, non lo so cosa dirti perché non so se l'ha saldato bene, se ci è riuscito o meno, poc'anzi mentre ho avuto dei problemi, quindi non lo so, si farà sentire, dai. Ha avuto dei problemi. E va bene, va bene. Sto guardando un po' di roba su Fetchbacks. A chi? Vai Cri. L'hai calpestato. Sì, io ti ho sentito, però subito è entrato Gavino. No, vabbè, stavamo parlando di te, sei riuscito a verificare il servizio stazionale prima dell'attacco del 747. Anche perché sennò fai danno, dai. Prima devi constatare se sono stazionali, perché tu l'hai piazzata così, però non credo che quella lì sia già messa a buon uso. Sicuramente sono a controllare le stazionarie. Comunque arrivi bene qua, Cristian. Arrivi 9:10, la radio un po' bassina, però arrivi bene. Sì, è un microfono normale, Fra. Però vabbè, la radio è già, è 5 watt, tenete conto quello, quindi a voglia, con una Grand Prix. Per essere così stanno arrivando abbastanza bene, almeno qua, da me. Avanti, capì? Sì. Va bene, va bene. Oh Fra, ma volume devi toccare tram e tino? No, non è importante. No, non è che è importante, non è che non è importante. È per capire la potenza radio se si assomiglia. Un po' più alta quella di tino, però va bene. Ok, perfetto. Più amplificata può essere. Cava, avanti ti. Vabbè, guarda, mi allontano di 50 centimetri, beh, così almeno evitiamo questa cosa, va bene? No, attaccati che sei andato a fare un effetto chiesa, attaccati come parli tu. Non ti preoccupare, sono io che sono basso di amplificazione. Tino, andavi bene, dai, non ti preoccupare. No, vabbè, mi sono spostato di 20 centimetri, niente di che. Adesso sono circa 30 centimetri. Era perché mi stavo rilassando la sedia. Eia, ma ti fa quell'effetto cattedrale. E quindi lo devo fare? Aumentare il processore? Rimane un'oretta in tensione, ma neanche in radio vuoi fare le cose. Un po' concentrato. Sono stanco, sono stufo. E comprati un Mac Palmare allora. Ce l'ho qua, quello originale, non mi ricordo, che l'ho buttato forse in un armadio fuori in cantina, non so dove. A me mai che Palmari non è che non ci vado d'accordo. Sì. E io ho il Palmare amplificato, non è che ho chissà cosa. Io sto utilizzando un Palmare amplificato. Sono bello stravaccato e niente, va bene così. No, posso sollevare anche il livello microfonico, posso sollevare l'amplificazione, però 5-10 minuti fa è entrato un serbo e mi ha detto che ho la radio perfetta, ho la radio bellissima, quindi se me lo dice il serbo vuol dire che è così. Dille però al serbo che prima di lui c'è stato un altro. Cosa ti... Ho detto dille però al serbo che prima di lui c'è stato un altro. Esatto. The Radio Super Italia, super, super. Vandittino, uia. Francolino, va bene, vai, riprenditela. Sta attento che i serbi c'hanno i missili, c'hanno sotto quella vestaglia che usano. Vabbè, tanto Putin ce l'ha con loro, non con noi. Mi pare continua a uscire, la cosa è grave, vero ti? Ma guarda, io, a me questa gente mi fa ridere, perché stanno protestando, facendo per gli altri, però non si guardano le cose loro. Cioè, alzate la voce per le cose nostre, che forse è meglio, invece no, guardano gli altri. E vabbè, qualche cosa succederà, Io credo che quando non avranno più niente dentro il piatto, allora diranno, cazzo, forse ci siamo sbagliati. Ma il problema vedrai che questi, vabbè, questi nutri sono, pensano altre cose, a farci ricchi loro, non pensano alla popolazione, perché loro c'è guadagno da questa guerra, che se noi la caldaia è finita. Non avete in dubbio, però voglio dire, cioè c'è guadagno, però l'italiano sta sempre andando in discesa, non è stato né stabile né niente, sempre andando e ricadendo. Lo so, però ci hanno aumentato le pensioni, hai visto? Ci hanno aumentato. Un euro gli hanno dato. Scusate un attimino, devo chiamare il cane che ci è uscito fuori, aspetta. Ci hanno aumentato la pensione, a me mi hanno diminuito €1 dallo stipendio. Diminuito dirai? Sì, invece di prendere i soldi che prendevo ne ho preso €1 in meno. A voi da un po'. Oh Giulio. A te lo immagino, quando devono aumentare le pensioni e le buste paga dei lavoratori, passano da €1 a €1. Quando si devono aumentare a bagagli, passano da 200.000 euro. Sì, vabbè, devi aumentare la bagagli, l'aumento deve essere sostanzioso per loro, me compreso, che sono una massa di miserabili, ci vuole un qualcosa a prendere e a farli spaventare, ma non senza farli male, però un qualcosa a farli spaventare ci vuole a questi quattro cani. Vivo una bella cosa, fa la maledizione l'agenzia delle entrate, come te scittata, però come ti dice che davvero meno spilito chi sia già a questa ora della notte, commissioni, certo. Fai tranquillo, non ti preoccupare, se a dopo se ci siamo, ciao. È un casotto. Va bene, Cri, sentiamo dopo, già io per un pochino già sono qua, poi chiudo perché la mattina si lavora. Vai Francolinos. Ciao Cri, ce la riascoltiamo, dai, se ci siamo dopo, va bene, se no pazienza, alla prossima. Ok. E così è, capito? Così è. Domani a lavorare devi andare. Sì, stiamo facendo 6 ore. 6 ore tutti i giorni, perché è inutile farne 8 tutti i giorni e poi magari no. Stiamo facendo 6 ore dal lunedì al venerdì, giusto per mettere un po' a posto, così abbiamo. Dai, così no. Siamo impegnati, come siamo impegnati. E niente, c'è da fare un po' di roba in capannone. Ma se la abbiamo per un piano con calma avrà. E allora, se non è urgente basta farlo piano piano. E ci avete lavoro tutti i giorni. No, lavoro già c'è, devo recuperare molte ferie io, capito? Quindi me le sto recuperando così anche. Devo recuperarmi molte giornate di ferie e quindi siamo rimasti d'accordo così. Cioè tu pensa alle ferie che ho accumulate, io in tutti gli anni devo prendere, devo scalarmi un bel. Quindi io la verità mi serve, cioè è inutile che me le pagano e poi intanto no, me le recupero. In giornate me le recupero in... Tu pensi che ne aiutava fino a marzo da recuperare. Diavolo. Cioè, non tieni così di vivere. No, niente fra, niente perché io ho anche indennità di turno, quindi è tutta roba da recuperare, è tutta roba da... da recuperare. Allora sono arrivato a un accordo che invece di avere di farmi dare i soldi me le recupero così, capito? Via da te quanti neanche. Cosati? Ho detto via da te quanti soldi, quanti soldi? No, no, non ne ho soldi, non ne ho soldi. Però io se posso me prendo e me le recupero così. Inutile che mi recupero, intanto soldi tutti assieme non me ne dà, quindi poco alla volta non li voglio. tutti assieme non ci sono. Cioè è impossibile, quindi mi devo recuperare, me le recupero così. Siete ognuno in pace con se stesso e mi recupero le giornate così. Segui? Allora, se ti dà piano piano, neanche li vedi, ti rispendi, è come che non te li adatti. Dandosi tutti quanti assieme sarebbe stata un'ottima cosa, perché magari o ti compri quello che ti serve o te li conservi o fai quello che vuoi. E così ti godi magari le giornate, va bene uguale lo stesso, non, cioè tanto dare te le deve. Lo so, però in questo modo c'ho stipendio e libertà. In quel modo ho i soldi, però non ho libertà di niente, perché devo fare dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 6 di sera. Invece in questo modo prendo lo stipendio uguale, però ho quella mezza giornata libera. Sì. Già va bene. Intanto ti cosa non ricco non divento, eh? Ricco non divento, non mi compro appartamenti, non me ne posso comprare altri, quindi non preferisco starmene tranquillo. Io faccio fino a luna e poi ho tutta la sera libera che mi posso fare anche lavoretti per i fatti miei ed ecco che me li recupero. Ah, quindi tu ti lavori praticamente mezza giornata e l'altra mezza giornata ti stai scontando le figlie. Esatto. Ah, ok, già va bene, dai. Sì, cosa devo fare? Tanto non è che non me ne dà. Mi è più comodo così, a me, capito? Mi è più comodo così. Mi serve più la mezza giornata, mi serve la verità, più la mezza giornata libera per prendere, farmi qua a casa, farmi il mio straordinario con qualche viaggio con un furgone e me le recupero lo stesso. Sì, è buona, quando è così già va bene, dai. Io pensavo che ti prendevi direttamente le giornate intere e te le pagava pure. No, paga le 6 ore. Le 6 ore più queste giornate in recupero fino a marzo da recuperare, quindi ho un bel po' di, perché ho anche turni da recuperare, ho le, come si dice, le reperibilità, ho tante cose da, ci sono tante cose da recuperare, quindi ma la verità mi ha detto me le vuoi te li do, non, però alla fine sono schiavo tutto l'inverno a starmi chiuso il capannone, invece no, mi faccio la mattina e poi la sera sono libero. Sì, auguria, già va bene, dai, già va bene. Vai Fra. Ecco, va bene, sì, va bene. Purtroppo il lavoro è così. Ognuno se lo gestisce come più bene che può. Così è, capito? Sì, Fra, a volte io mi devo privare della libertà di fare qualcosa, di fare a chi so, con chi, vado a voi. Cioè faccio qualcosa pieno, devo fare dal lunedì al sabato a mezzogiorno, attenzione. Sicuramente non mi pare proprio un caso. Dopo un'estate così in giro, un'estate di sfasciate di schiena, quindi devo fare anche la cura a questa schiena, mi devo fare, quindi me l'ho preso anche per quello, capito? Devo tenere un po' a riposo la schiena e iniziare la terapia con questa, iniziare questa ozonoterapia, che ci vorrà il recupero, ci vorrà tanto il recupero. E allora l'ho presa soprattutto per quello. La schiena, oh Giulio, schiena è un casino, chi è che non soffre di schiena? che lavora, soffrono tutti di schiena più o meno. Avanti di te. Lasciamo perdere questo tasto che, guarda, ui, la schiena, via. A parte la schiena ci sta venendo un male di ginocchio, infatti sono andato a casa di mia madre per farmi dare una pomata che speriamo che mi allevi il dolore. Secondo cosa metti già te lo allevia il dolore. I ginocchi di nuovo sono importanti, quelli se hai preso colpi oppure a meno che non sono artrite, queste cose qua, e andare col tempo, preso freddo, tutte queste cose, è un casotto, chi lavora è così. Chi lavora è così, però a volte cioè a me mi dà fastidio anche se sopra l'escavatore, non è che... E già mi sta facendo male, quindi vorrei cercare di alleviarlo il più possibile, in maniera tale che se non lo sento ancora meglio. Oti, essendo seduto, tu hai le ginocchia sempre nella stessa posizione, tutto il giorno. Poi arrivi a casa e ti siedi, e come ero io lo stesso, ero sempre nella stessa posizione, anche se usi i piedi per i comandi, queste cose qua, però sei sempre in quella posizione e si risente quella posizione lì, andare col tempo. Lo so, cosa ti posso fare? Quello è il mio mestiere e quello devo continuare. Certo, purtroppo è così, come ero io sul carrello elevatore e non va più lungo manco di allungare l'anchi, non va via. Eppure ci passavo otto ore sopra. A chi lo dici? Ma vabbè, speriamo che riesco a alleviarlo un pochino. Piano piano prendi le medicine, le pomate giuste, da, già te lo allevia. Avanti, Evi. Sì. E voi pensate chi lavora in banca, tutti sudati, tutti sporchi. Tutti a mal di schiena. Sì, no, pensa se avessi lavorato in banca con tutti quei soldi che devi contare tutti i giorni, però non li puoi toccare, quanta che sensazione brutta. Sì, qualche mattina ce l'avrei fatta, altro che quando hai la mano nella Nutella e lo dito non ce le metti. Chissà, non è proprio Nutella. Chissà, chi vi dite non è buoni, magari c'è qualche incentivo perché lavori in quella banca per prestiti, finanziamenti, però... Io dicevo, deve tornare lo zero. No, non vi nenno di ciuri strani. Non si vuole né pesce, no. In chi vi si manca pure i 2 o 3 euro, direttore, venga, devo fare un discorso. Mancano dalla sua cassa... E dalla sua postazione mancano 55 centesimi, dove so? Non lo so, credo che loro hanno molti incentivi per i finanziamenti, capito? Per prestiti, cose varie, rimborsi, quello è vero. Però non si vuole un chilo di pane in Chivi, eh. Lo so, però tu non hai visto il film Ricordo di Sam, Fantasma, io dai, hai visto quanti soldi ha fatto, basta un click e poi vai via, sparisci, non lo so, però insomma, sì, verranno a saperlo, chi se ne frega, ma non sono più. Lo so, magari fosse stato così, come... Io ho un amico che lavora al rifornitore, e un giorno scaricato. beccando la botte, non so per quale motivo sono rimasto, è rimasto del rifornitore portuale, sono rimasti, mancavano 30 litri di gasolio, 30 litri di gasolio, 30, e dalle letture del contatore mancavano questi 30 litri, e alla fine glieli hanno debitati, e poi, debitati glieli hanno, dalle letture su 30.000 litri mi sembra che sono l'autobot. Gasolio motopesca, 30.000, e ci sono accorti di 30 litri. Allora adesso ti spiego un trucco che mi ha detto uno che lo faceva, non faccio nome. Allora, botte del gasolio, ok? Allora, botte del gasolio si riempiva 2-3 bidoni, dipende quanto ne aveva voglia lui, di gasolio, e li metteva dentro la botte appesi, facevano volume, e quindi quando tiravi, tiravi quello che c'era, il giusto, però lui gli rimanevano quei 20-30 litri di gasolio, o 25-50 litri, quello che era. Ma sai, cioè, l'hanno scoperto perché, ti spiego il perché l'hanno scoperto, perché quando andava a vedere le partite, è anche stupido, no? Andava a vedere le partite del figlio, no? Si vantava, lasciava la macchina in moto, sempre in moto, e la gente diceva, ma perché non spegne la macchina? Ehi, tanto non lo pago il gasolio, tanto non lo pago, sino che poi hanno scoperto il perché non lo pagava, e infatti era inquisito e insomma, e poi è passato dei guai, però la maniera di poterlo prendere dalle botti c'è sempre. Sì. E tanto vedi, poi la debitano all'operaio del rifornitore perché gli è mancato. Diciamo che il coso te lo segna come è stato scaricato, capito? Poi sì, ne verrà fine quando scarichi proprio del tutto le botti che sono in terra, sotterrate, ma non si scaricheranno mai, perché quando arriva a un certo punto chiamano la botte e la fanno nuovamente riempire. Ma scusa, ma come fa a il proprietario del distributore a non capire? Ci sono le stecche che sono segnate, sanno quanto ne entra, se ne entra 30 litri in meno se ne accorge il gestore. Bravissimo, c'è quella stecca nera che si mette la pasta per vedere se c'è acqua dentro, e in ogni stecca c'è il numero, e te ne accorgi, in maniera che ti inabizzi, perché non prendi solo le letture, prendi anche l'asta, capito? Schiavo, prendi anche l'asta, e in quest'asta metti quella pasta bianca che diventa rosa se c'è acqua nel gasolio, se ne accorgi per quello. Guarda che quelli quando rubi in piccole quantità non te ne accorgi neanche, perché la botte è molto grande, capito? Quindi non te ne accorgi, sì, ti segna il livello del gasolio, ti può dire che per dire ce ne sono 30 litri, invece ce ne sono 35-40, neanche te ne accorgi, capito? Perché è molto grande la botte, ti segna in base alla stecca, poi la stecca basta che la metti leggermente inclinata, ti segna di più o di meno, cioè queste cose già le sapete. Sì, però se ne erano abbizzati e ve l'avevano fatto pagare, quindi. Però in banca è un mezzo, in banca non scappi, in banca come alle poste, come non, poi con questa sorta delle casse, adesso ci sono queste casse che prendono, devi mettere i soldi, te le contano a 10 centesimi alla volta, pure magari 40 anni fa, 50 anni fa forse, però adesso loro non hanno più una casa, loro prendono, mettono i soldi dentro questo affare e li conta, lo sai come sono, da niente. Oi. Bel guaio con queste. Prima c'era più margine di furto. Vai. Sì, è vero. prima sì, vabbè, là c'era più meno controllo, più fiducia, più tutto, e infatti la fiducia poi è andata a mancare per queste cose qua, perché tu pensa che io avevo notato, ti parlo di forse 30 anni fa, avevo avuto intorno ai 25 anni, 20 anni, insomma, ricordo, vabbè, ero andato a rifornire al rifornitore di bancari. E mi avevo fatto un conto e ho toccato, porca miseria, ma perché mi... la benzina mi... Allora avevo la macchina benzina, mi durava di più e qua non mi durava di meno. Come mai? Allora ho messo un occhio un po' sul contalitri di quello lì. E effettivamente stava rubando prima di erogare la benzina. Maria, purtroppo lo fa. Purtroppo lo fanno. E a proposito di gasolio, avete visto a quanto è il gasolio? 1,70 e 11, a 1,71 e 1. Di nuovo aumentato. Questo schifo del gasolio. E tutti muti, importante che ci siano le squadre di calcio che abboccano, che fanno abboccare la gente, che ci sia TikTok e Facebook. A voi lo gasolio poi arrivi pure a 2 euro, non fa niente. Tanto stiamo troppo bene. Siamo e siamo usi. 1,71. Se si può, un litro di gasolio. Per carità, quanto la benzina costa? È arrivato pari alla benzina, 1,71 il gasolio e 1,71 la benzina. Non cambia niente. Vai fra. Purtroppo, ormai non cambia niente, non cambia. Vabbè, purtroppo stanno rubando da tutte le parti, stanno rubando questa gente. Anche se col gasolio fai qualche chilometro in più, ma non compensa niente, per chi lavora con la macchina non compensa niente. Cosa fai col gasolio? Ormai le macchine a gasolio consumano quante le macchine a benzina, fra, da sapere, sino pure di più, ma chi... Ormai sono tutti quanti sovralimentate, sono turbo, sono coso, e consumante. Quanto o di più la macchina a benzina? Prima le 1 turbo diesel, le 1 diesel non consumavano, i fiorini, le tipo, queste macchine così, no? Erano da zena d'aria. Però, che poi io, la verità, il consumo tra la macchina a benzina e la macchina a gasolio non ho mai notato questa differenza da quando c'è l'iniezione elettronica. Cioè prima sì, col carburatore te ne accorgevi, se prendevi, ti posso dire, un Alfa 33, un Alfa carburatori, una 1, una qualsiasi macchina a carburatori, sì, è vero, consumava più il gasolio, così, d'accordo. Però da quando sono arrivati questi iniettori pompa insieme all'iniezione per la benzina, i consumi io non li ho visti, cioè non è che ho visto questo grandissimo differenza di consumo. Adesso sono proprio pari il consumo e pari è il costo del gasolio. L'olio per gli italiani è aumentato, prima un chilo d'olio lo pagavi 11 euro, 12 euro, il selenio, adesso il selenio avviene 19 euro e 20 euro. Quindi siamo, un tagliando ti costava 50-60 euro, lo faceva, adesso per un tagliando tra manodopera e tutto non ti bastano 140-150 euro. È raddoppiato tutto. I stipendi sono uguali, Rubani goccia è a 4,50 euro un chilo e piano piano si lascia opponendo sempre più in dritto. Vai ti. Guarda, oggi ho portato il pandino a fare tagliando e braccetti, domani ti dirò di che morte devo morire. Ma se hai qualcuno che conosce, ti fa risparmiare, ti dice dove prendere i pezzi, o trovi quello che ti dà i pezzi in ricambio o magari che ti fa lo sconto cliente, ma se io vado in un negozio dove non conosco nessuno, chi sa me mi graccani, compreso, mi graccani. Io per fare il tagliando a quel furgone ci vogliono 140 euro, prima con 70-80 euro, 90 euro lo facevo, perché il filtro del gasolio costava 7 euro, adesso ne costa 18, eh? L'olio, il 15-40, il 10-40 che metto io, tu direi, poi basta mettere quello che costa 8 euro. Pure tu hai ragione, però quando si rompe devo metterci il doppio dei soldi. Io li metto sempre l'uranio a lui, ed è a 20 euro, 20 euro il chilo, ce ne vanno 7 litri, 7 chili ce ne vanno, più filtro gasolio, filtro olio, filtro dell'aria. E quello lì ogni stagione va fatto, va fatto adesso 150 euro invece di comprarti quello, e vabbè, intanto sono sempre 150, 160, 140, quando non devi fare i freni, e quando non devi cambiare le gomme, quando un trono di gomme ci vogliono 1200 euro, avanza, e vuole i giambatti, vogliono adesso, a gennaio lo devo cambiare, sto aumentando, è aumentato tutto, tutto, tutto. Tutto quanto, poi si lamentano quando la gente compra da internet. Dai, fra. Capo, sì, è vero, io non è da molto che ho fatto il tagliando la mia, e tra filtri, olio, cartucce gasolio, cartuccia olio, ho speso 140 euro, ho speso solo in olio e filtri e gasolio, perché gasolio è tutto, però 140 euro, poi ho speso altri 50 per farmi il tagliando. Divano d'opera. Esatto. Niente. Va bene che loro... Vabbè, ma di manopera non te l'ho chiesto neanche tanto, mi fra, perché poverini, guarda, io ti dico una cosa. Un tagliando a loro li costa trasmaltimenti e tutto, a loro li vengono magari quelle 35-40 euro pulite, ma di quelle 35-40 euro pulite, tolti gli smaltimenti, devono pagarsi tasse, IVA, cose, e quando lui rimane di chi si guindi in tiro a tagliandolo meccanico, e ne deve fare al giorno, ne deve fare tanti, loro sono obbligati a prenderti quei soldi. Sono obbligate, anzi anche poco, e anche poco, perché secondo me fai tagliando, il coso viene dalle 20 alle 22 euro ora, il tagliando come prestazione di manodopera, più il materiale, che non si fascia nulla, a chi se no da voi sotto chi vuole. Riprendo subito, mi bevo un bicchiere d'acqua e mi fumo una sigaretta, arrivo subito, questi discorsi a me mi fanno andare a impazzire. Ui, lascia perdere che tu pensa che devo cambiare anche il separatore d'acqua nella mia, tra una cosa e l'altra ci vogliono 700 euro, perché devi cambiare tutti quanti i tubi, devi cambiare il radiatore, devi cambiare le vaschette dell'acqua e tutte queste cose qua, insomma, sono andando e peggiorando. Adesso io questa macchina sì, la dovrò aggiustare, perché voglio dire, con 700 euro non è che mi compro una macchina andante, però porca miseria, che è uno, non basta mai, c'è per tutti che... Ma è così, Tino, io da poco, c'è un po' di mesi adesso, c'avevo un iniettore che stava perdendo proprio a zampillo, stava perdendo, l'ho portato a fare, e quando lo stava togliendo il iniettore si è rotto dentro, ha detto cavolo, e per togliere il pezzo dovevano tirare su la testata, hanno la buganiera sul iniettore, tutte e quattro sono spezzati dentro, e ho dovuto mettere tutti e quattro iniettori nuovi, e più la buca della decada, l'ha fatta va, pulire tutto quanto, e adesso quanto mi è costata a Ravvini, mi è costato quasi 1100 euro. Sì, ma voglio dire, per quanto riguarda gli investitori, se l'ha rotti, l'ha rotti lui, non è che, cioè voglio dire, quella era una sua incompetenza. No. Gli attori non è fatto di competenza, si sono bloccati dentro, sono arrugginiti dentro, capito? E non escono, e Gandecusini, era la macchina c'ha 18 anni e non sono state mai toccate. Boh, non so, queste cose solo loro lo sanno, io ti ripeto, non ci metto mano e lingua su queste cose perché non sono, non ho quel mestiere lì, però insomma bisogna essere un po' attenti perché cavolo, cioè far risparmiare il cliente vuol dire tanto anche me. Lo so, però gli attori costano più tutto quanto la rettifica che ha fatto fare la testata, la pulizia che ha fatto, c'è stato un giorno per fare un casino di lavoro e poi ha continuato con tutto l'altro, ha continuato, e c'è stata una settimana la macchina giù, c'è stata in officina e ti dico che il lavoro già l'ha fatto e l'ha fatto anche bene, l'ha fatto, però diciamo i pezzi costano un casino. Lo so, io ho fatto bombardare gli iniettori della macchina di mia sorella, mi sembra aveva speso 600 euro, quindi non è che cioè bombardarli, hai l'attrezzatura, tu su di lui, però voglio dire, cosa fai tu manualmente? Manualmente non fai niente, sempre l'attrezzatura ci vuole, è adatta. Purtroppo è così, però bisogna molte volte bisogna stare a quello che dicono loro, perché a te la macchina ti serve, perché non sai farlo, non è, cioè ti affidi a loro e tante cose, e vabbè, cioè meno che uno si diretta a fare queste cose qua, allora dice no, aspetta un attimino, ma sì, questo me lo faccio io e tu mi fai quello che io, per dire, non posso farlo perché non ho la strumentazione, capito? Vai Cristian. Ti ho rilanciato e si è addormentato. Bene, e comunque fra, adesso vediamo perché ne ho due in riparazione e questo mese mi viene difficile anche, però dai, speriamo di uscirne. No, io se si spacca di nuovo ce la butto via, non me la fotti nulla, capito, gli abbassa e avanza, avanti capito. Sì. E fra, tu sei stato fortunato anche per la turbina, tu sei stato fortunato per la turbina che ti è fatta tua, che secondo Akira Davi ti faceva cambiare la turbina ed erano i guai. Hai avuto il coso di cambiartela, di farti la riparazione tu e risolverti il problema, o sbaglio? Sì, il problema sono riuscito a risolvermelo io, quello della turbina. Però le altre cose non ci arrivo io, quando si tratta di toccare il motore io non ce la faccio. Fra, non è che non ce la fai, ce la potresti anche fare, però ormai con queste macchine qua c'è troppa elettronica, troppa elettronica, troppi depressori, troppi sensori. E tutto per questa cosa dell'inquinamento, per questa cosa del... adesso... e macchine con questo filtro antiparticolato, li vedete mai queste macchine Fendi Fumo Nido, Fendi Fumo cose, perché stanno rigenerando, poi ti si fa. L'altra notte qua vicino a qua a casa io stavo rientrando, sono andato a fare l'altra sera era già buio, davanti al cancello c'era questa signora con le figlie in macchina che aveva, che non gli camminava la macchina. Gli ho detto, signora, cosa è successo? Gli ho detto, non mi cammina più la macchina. Ho detto, posso provare a mettere. Gliel'ho messa in moto, gliel'ho spostata dove c'ho il cancello, ho messo la macchina dentro, gliel'ho sbagliata, che era mezzo carrina. E di questa macchina gli segnava rigenerazione FAP, rigenerazione FAP. Ho detto, ma lì questa macchina un po' la tira. Ho detto, no, e cosa devo tirare io? E ho detto, questa macchina c'è da rigenerare il filtro. Ha pigliato, infatti, giunto il marito, ha fatto, lo so, c'è da rigenerare il filtro, c'è, però ci sarebbe da cambiarlo perché si è fatto il tappo, consuma, aveva coscia, un medinale, su filtro antiparticolato, dice cose. E so problemi a chi si tacciappa, chi sei un poco buono, che hai qualche spesa in più ogni mese, magari in quel mese hai la spesa in più dove c'è assicurazione, bulletti e coso, ti inguaiano, uno non è che non se la può fare perché uno che prende cioè appena il coso a farsi un tagliando, a farsi una cosa, ce la fa pure in carriera, una vaccinella, un bacio di un nitrazzo e ti ruvai. Però se ti segna l'errore la macchina ci vuole per forza il computer per azzerarlo e ti va male fra la macchina, compreso? E non è più come te prima, non è più come 20 anni fa o come 25 anni fa, 30 anni fa, chi mi svazia, li travagli si rivazia da parete. Non che non spacchi la testata, non spacchi quella roba lì, pistoni e cose, logicamente devi portarla, ma anche una frizione, uno che sapeva come farsela. Io mi rivazio, chi si travagli mi rivazio io, mi pulivo in carriera sotto a casa di mamma con amici miei e ci rivaziamo noi sotto a casa, ognuno sotto casa sua per offrirmi la frizione. Pigliavami che ognuno aveva l'attrezzo, lo portava e era sera e rigiro in macchina. Adesso non lo puoi più fare, non lo puoi più fare perché se tu prendi una classica Giulietta nuova, la nuova Giulietta, per cambiare il filtro del gasolio deve va un guaio, però ha fatto una distribuzione della macchina per cosa ti tocca. Vai ti. È vero, cioè adesso vabbè con le macchine di adesso non cioè, a meno che uno le conosce bene riesce ad andare avanti, se no non è più come prima, prima era più semplice, tipo motori della 127, era una spiaggia farli. Sì, erano macchine, ma ascoltati, ma tu lo sai io prima quanti impianti stereo nelle macchine facevo? E vi me lo metto lo stereo, io prima anche con una settantina o un'ottantina di euro o 20 anni fa lo facevo, 15 anni fa, 20 anni fa, riuscivo ancora a metterci le mani, ma cioè mi facevo i cavi dalla batteria, gli cambiavo gli ottoparlanti nelle sue predisposizioni. Adesso se ti azzardi a toccare un autoradio, no, a cambiare solo l'autoradio, che ha i comandi al volante, hai finito, perché secondo che radio devi cambiare anche il blocco dell'accensione della macchina. Quindi la radio non accende, per esempio un 159, un amico mio si è avventurato a cambiare la macchina, la radio di questo tipo, in un Alfa 159, ciamba la radio, tirava il freno a mano e spegneva la radio, quindi perché? Perché era collegata, aveva un cavo, una sorta di sensore nel freno a mano, che come tu mollavi il freno a mano, non so cosa vazia. Un disastro, non puoi più farle queste cose qua, non puoi più farle. Vai Cristian, sei operativo, altrimenti riprende Franco. Dipende dalla vettura, dipende dai pezzi, dipende da voi, dopo anche i pezzi di ricambio. Se ti si rompe, se tu sei un operaio, adesso uno come posso essere io, come può essere Tino, lascia stare Franco in pensione, però prende uno come può essere Tino, che tutti i giorni io dobbiamo andare a lavoro e mi si inguaia la macchina deve stare almeno una settimana dal meccanico, una settimana o due, perché ordini i pezzi ti arrivano sbagliati, poi piazzi un pezzo e un altro non va bene e devono aggiornare, devono attaccare il computer gli dà l'errore, non se ne toglie il piede, poi trovi il meccanico onesto che ti dice va bene, lo faccio, trovi quello che un po' gli piace solo montare e rimontare, non li piazzi, sta in chiva, mattanassi, lo debito, ti va di sciri il capo, ti va di sciri il capo. E esperienza ne ha Franco la turbina, e cosa ti ho detto, fra, abbiamo controllato, abbiamo vedere, e te l'è fatta la giura, è già andato due bulloni ed ecco che la macchina è andata a chiedere, perché te la, in questo discorso il radio ce l'avevamo già una volta, no? Che te l'ho detto, guarda che la turbina non ha nulla, non so se lo ricorda a te questo particolare, guarda che con la turbina se non ti fa fumo non ha niente, stai solo aspirando aria, e così è stato, o giusto, o sbaglio, fra? No, sì, c'hai ragione, perché mi hanno scoperto dopo che c'era quella guarnizione dentro il manicotto che era spaccato in due, quello non me ne ero accorto io. Esatto, ma vedi, parlando anche con parlando con qualcuno che più o meno qualche così, non è che siamo meccanici, però avvenne a che fare anche con dei mezzi pesanti, sai anche come ti devi, cioè quali possono essere le principali cause, cioè le principali, mai cosa ti posso dire, un'infarinatura di quello che può essere il difetto. Ma secondo chi trovi porta la macchina dal meccanico e dici no, qua ci vuole la turbina nuova, e magari quella lì sì è vero, la smontano, te la lavano, gli danno un po' di, ma veramente mi, gli danno un po' di vernice alta temperatura, anche vernice alta temperatura chiara, quella di turbina, una pulita, una controllata, la girante, e ti rimpiazzano da due, ti pigliano i 2-3 mila euro, e poi tu mi dirai, cioè, ma ci sono le fatture, la fattura, il coso lascia il tempo che trova, non ti preoccupa, che almeno, che anche se non ti prendono 2000 euro, te ne prendono 600, e l'ho trovata al demolitore, la vuoi? Sì, toh, dammi 600 euro, e in 2 ore hanno fatto lo travaglio. Ti smontano la tua vernice, non vedono che è buona, ti cambiano il manicotto e hanno guadagnato 500 euro usi, senza vannuta. Lo sai quanti ce n'è? Vai ti. Sì, di quelle manfrine già ne fanno, E purtroppo è così però. Adesso io ho avuto una brutta esperienza con la mia, con la turbina, ma la mia turbina aveva un spappa, avevamo fatto proprio il fumo bianco, ero a Cagliari. Fumata bianca per qualche chilometro l'ho fatta, sino a che poi mi sono deciso a fermarmi e andare a casa di mio zio, e lì ci voleva una turbina nuova, poi rigenerata, però dovevo aspettare 4 giorni, insomma mi doveva costare intorno, dovevo smontarla, stare 3 giorni lì, farla rigenerare, ci volevano intorno alle 400 euro, poi riportarla qua, ripiazzarla tra una cosa e l'altra, ho detto va, fa una cosa, mettila una nuova e 1500 euro, caro Franco, 1500 euro una turbina. Lo so, ho visto i prezzi, perché io stavo cercando di prenderla, poi non l'ho presa perché abbiamo fatto prima a farla, a ciambare su manicotto. No, vabbè, tu avevi aspirazione di aria, e infatti te l'abbiamo detto, se non fuma bianco non è la turbina. No, in effetti non è la turbina, non ha fatto mai il fumo bianco. Sono contento che non l'abbiamo mai fatto, perché me l'hanno risparmiati quei soldi. Vabbè, ma chi è che andava a vedere dentro un manicotto che c'era un altro manicottino, un piccolino, e vabbè, adesso lo sappiamo una cosa in più. Lo so, io l'ho venuto a sapere quando ero a Cagliari, insomma mi è venuto pesante, però meno male che allora c'era buon'anima di mio zio al quarto, è venuto a prendermi, e quindi insomma mi ha praticamente portato a casa sua, e sono stato un paio di giorni lì, ma vabbè, già è stata anche una bella avventura, non è che, e poi abbiamo dato la macchina alla, a un suo amico che era meccanico e mi ha fatto lavoro, però intanto 1200 euro li ho spesi tutte e va bene. Va bene ragazzi, io ne approfitto, devo preparare a mangiare dei cani e poi domani sarà una lunga giornata di lavoro, quindi ne approfitto ora che ho il mic a salutarvi, perché domani sarà una giornata di lavoro, spero, non come queste due che ho passato a casa, che insomma, sono poi a fine mese ci mettiamo la lacrimuccia nel viso. Dai, ne approfitto e vi saluto, riprendi Franco, aspetto che vi saluti e poi vado via. Via. Ciao Tino, dai, buon proseguo di serata e buona giornata per domani, ce la ascoltiamo. Avanti, capi? Sì, Tino, e anche io chiudo perché anche io domani mattina la sveglia è presto. Se vi svegliate presto, vabbè, tu Tino già ti svegli presto, quello già lo so. Se capita che vi svegliate presto o vi volete fare chiacchierate in radio, io le radio la mattina le accendo, anche io alle 5:30 le radio sono accese, che mi faccio un po' di ascolto in 80 metri e poi le spengo e vado al lavoro e niente, e le riaccendo nel pomeriggio, comunque, dai. Buonanotte Tino, buonanotte Franco, buonanotte Cristian e buonanotte a chi si è fermato qua, a chi ha messo lo stop al canale, si è fermato qua a 27.105 in frequenza modulata a fare un po' di ascolto. Qua io chiudo le trasmissioni e non riprendo. Franco, ci sentiamo domani pomeriggio, se entro domani sera, se ti fa piacere, le radio già sono accese. Se sono qui dentro casa ti rispondo, ma se è bella giornata credo che taglierò un po' di erba domani sera. Va bene, vai Cristian per il salutatino, chiudo e buonanotte di nuovo a tutti. Ciao. Ehi capo, dai. Ciao capi. Buonanotte, buon tutto, dai. Allora ci sentiamo domani e ce la riascoltiamo. Chiudo anche io. Ciao. Ciao Cristian.